c'è qualcuno sul canale 23? C'è qui canale 23, c'è qualcuno che ascolta? Dottore! Ehi, Gianmarì, buonasera! Beto, buonasera! E cosa è successo in questi giorni? Impegnato, e cosa vuoi fare? Prima il dovere! Quello sì, prima il dovere, poi il piacere! Ehi, cosa ci racconti di bello? Cosa te devo raccontare? Come tutti i giorni. Signor Macchisio, signor Macchisio, come sta? Era la pianteggio, era la sede che non intendo più. Ma, salve. Ah, che Macchisio, allora, si è messo in letargo. Ma no, che si sente male, no? Boh, non faccio nulla. È strano, eh. Io c'ho da fare, capito? Dice che non ho... E che le aveva fuggia di accendere, così che... ma c'era gente, c'era gente questi due giorni. Ieri c'era Giulio con Franco di Sorso, di Rivera Marino, poi sentivo Graziano sull'altro apparecchio con Luca. Ci sono anche, c'è Graziano e Giulio in PMR, li sto ascoltando, capito? Aspetta, il mio è fuori frequenza. E chi? Il mio. E come mai? Non lo so, deve essere che l'ho toccato ieri e l'ho messo fuori frequenza. Ma è piccolo, non il grande. Quello no, veicolare. Oh, è strano. Allora ha toccato qualcosa, se è cambiato. Non lo so cosa ha toccato. Tu fai la, come si chiama? Lo spegni, mantieni il tasso un secondo e si rimette in sesto, capito? Bisogna rigettarlo, capito tu? Ma mi sai però ad esempio mantessi i gari, aspetta un attimino. Dai, prova, per forse si rimette a posto. Se no già la puoi cambiare la frequenza come vuoi tu, Gianmarì. Avanti gli vuoi andare in verso, però c'è lo stesso canale, però andiamo in verso. Ma forse Otto, non è difficile a farlo. Si aspetta la frequenza all'altra parte, così. Li ascolto lo stesso, però si è messa un'altra frequenza alla Sabassi, invece che a Basiusa. C'è un tasto che bisogna toccare, non mi ricordo io com'è sto. Però è facile, se no fai così. Entri e rifai di nuovo la frequenza, capisci, quello lì. Fai di nuovo la frequenza, ti esce quello che metti, capisci? La sussiava, non ha giocato, non canno altro nulla. Ma tanto non c'è niente, visto. Io mi si faccio direttamente, ma è gettato l'hai? L'hai gettato, ho fatto, ma se n'è andato l'altra cosa, ma li sto ascoltando lo stesso qua. Riprovo l'altra volta, cazzato, se ci mette di nuovo a posto, sennò non è difficile, no? Fai con la freccia e ti sposti la frequenza, capito? E poi abbassi sul PMR, fai la frequenza del PMR e vedrai che si rimette a posto. No, la frequenza del PMR invece di essere sotto se l'ha messa sopra. E non fa niente, insomma. Anzi no, se lo fai cadere giù, la freccia, che tu la freccia la puoi mettere su e giù, no, puoi andare con una frequenza con un'altra. Allora tu portala giù e fai e giri di nuovo la frequenza, capito? Ma rimane così. Già va bene lo stesso anche così, li ascolto così, li ascolto. Ascoltare così non ha lo stesso. Però non è difficile, so. E te lo dice anche manuale, te lo dice, capito? Vabbè. Tanto il microfono è un po' diventato un po' difettoso. Bisogna bisogna schiacciarlo bene bene per parlarci. Ah, non come mai, apparecchio nuovo, grazie. Ah, vedete se si è consumato la il coso della quando schiacci la levetta. Deve essere quello che se deve essere consumato il tastino. Bisogna schiacciare bene, bisogna schiacciare per parlare. Strano, non è che si faccia così in due giorni, cosa non l'hai nemmeno usato qua. È strano che c'è. C'è strano veramente. L'ho guardato, ed è appena consumato. Per andare ci devo attaccare qualche altra cosa attaccato alla levettina. Ci devo attaccare qualche pezzettino di plastica per poterlo tenerlo bene. Ma dico solo, come fa a consumarsi la roba nuova? È quello che sembra strano, Come fa a consumarsi? Chi non è mai acquistato? Bisogna schiacciare bene, bisogna schiacciare per poter parlare, perché sennò un bel di volte mi si interrompe. Già l'hai già controllato. A me mi sembra strano, capito? Forse era un oggetto magari usato da molto tempo, ma grazie a Dio, dopo c'è un oggetto che ho consumato così dentro, mi sembra una cosa strana. Ma non è che si raccaggia di terra per caso? Non penso, no. No, perché ce l'ho sempre sul tavolo, ce l'ho. Gli abitanti del paese. Ma dispiace, certo che un oggetto che è nuovo, dispiace, forse altro magari vecchio, vabbè, ma è una roba nuova, ragazzi, dà fastidio, Non lo so, è l'unica cosa che devo tenerlo premuto bene, lo devo tenere premuto. Fa favida. Vabbè, importante che prendi bene, che no, magari bisogna guardare se c'è nuovo, a vedere qualche cosa nuovo. Non mi manca a compararlo, va? Su uscito adesso. Posso andare più giù duro, poi dire no, fa una cosa del genere, che così un poco. Allora cerca di vedere un po', guarda. È proprio strano, una cosa nuova, non è che può succedere anche quello, non è speciale difficile, può succedere anche quello, però a questo basso è strano, Qualcuno io, ma non ne ho altri, l'altro qua, però il suo è l'unico, è il suo, perché infatti poi sono microfoni che non finiscono mai, quelli già l'hai visto, come sono pesanti e roba dura, capito? Ci manca qualcosa, perché si gioca un poco, vi manca anche qualcosa che aggiunge, cioè anche il tastino. Quando l'ho aperto non è sceso, questo è anche quello, la tastiera bene funziona? Sì, la tastiera funziona bene. La tastiera sì, metterà dopo io a ciamba. Ecco, per quello che lo stai usando allora? No, che nulla lo sto usando per quello. Certo. Aiuto, sembra strano proprio che proprio tu che non riesci a mettere a posto questa roba, cazzo. Perché adesso sono un po' indaffarato e coso, e non faccio tempo. Quante faccio un minuto di tempo che Che facciamo Manzano, che non si presenta a nulla, ma è buono e la baglio dovere, lo apro e lo guardo bene. Magari il pezzo sarà qua sopra sul tavolino, sul tavolo qua. Controlla per quello, capisci che ti faccio qualche pezzo. Quando lo apri, metti sulla cosa un zero, grazie, nel modo che se ne scende qualcosa, ce l'hai davanti, capisci? No, così mi si vuole, io non ne tocco. Io non ne tocco mai per il perché se lo smonto, se lo apro, lo rovino ciò. Io non tocco a parecchio per quel motivo, perché ho provato una volta e l'ho rovinato. Allora non ne tocco io. Magari la gente competente, ma io non ne tocco perché lo rovino subito. Se no è dentro nel microfono lì, magari c'è qualche cosa che fa spessore, deve essere lì dentro stesso, perché qua fuori non ne ho trovato. Sicuramente è dentro lì e io non me ne sono capisato quando ho aggiungerato. Ma comunque non è importante, dai, l'importante è che l'apparecchio funzioni bene, che quando batti bene poi se lo controllerai appena che stai in tempo, controllo bene. Per quello quando si apre una cosa io faccio così, mi metto un telo grande in modo che se me ne scende qualche vite lo trovo. Già non ne tocco roba io, cazzo, ma se lo apro lo rovino, capisci? Ah, no, l'ho aperto per vedere il tastino perché mi si mollava. Sicuramente è rimasto lì dentro il microfono quando l'ho chiuso e c'è qualche cosa che perché gioca un po' a giudizio. Ah, già lo metto a posto. Io vedo un po' appena che stai in tempo. D'accordo. Vediamo un po' se c'è il bacchisio. Bacchisio! Cazzicchino, c'è il bacchisio. Cazzo, non dico io. Ma vediamo che non si senta male, ma non penso. Speriamo che si senta bene, che si è indaffarato anche lui. Speriamo. O se fa caso di vavidà e coso. Non si stanca, no. Non si stanca così il bacchisio, no. Capito, non si stacca così, davvero, magari ci avrò da fare, no? Come io per esempio questi due giorni non l'ho ascoltato, stavo ascoltando, poi ieri tardi, quasi prima delle 8, ho saltato Graziano di Vira, è Luca, ma due parole e dopo hanno chiuso e scherzo anche io, ma prima non l'ho potuto, ero impegnato per carità e domani sono impegnato nuovamente, magari domani sera no, nemmeno dopo domani. Però i maschili sono sempre impegnati. Vabbè. Andate così, vuol dire che piano piano. Avrà entrato, si inagana. Vediamo bene, allora stasera aspettiamo, vediamo un po' se entra. Bene, sto uscendo. Adesso sì, poco fa è di basso. Basso perché era appena acceso, tu. Era appena perché ho acceso, acceso un altro per mettermi le cuffie che mi viene bene di fronte. Perché c'è anche la televisione accesa, capito? Io mi sono cercato di idratare i cuffi. Mi bolliscono le orecchie, se no. Anch'io quando male le orecchie, ma siccome c'è la televisione, allora non riesco a capire un tubo. Capito? Anche perché c'è anche lì, qua. Se no io non accendo mai audio. L'ho messo a zero, mi basta vedere la figura, capito? E esatto, riesco a capire ciò che dicono. Però quando c'è lei deve ascoltare, per cui si solleva il volume, allora mi metto le cuffie per quello, capisco? Faccio. Così mi devo... Io mi sono traccato e voglio le cuffie, già ci vuole una bassa. Va. E' allora ieri c'era Marino, così è. Ah, dice che coso mi ha detto che c'era Marino, adesso che quando sono entrato io lui aveva chiuso prima. E Marino pure c'è più da barattolo. Anche lui si assenta. Ma è così, quando uno c'ha da fare, è chiaro che la fare quando è possibile, si entra, quando no, è cosa si può fare. Non è che possa stare sempre lì, no. Prima si deve fare i doveri che si deve fare. Poi quando sono i doveri, allora magari 10 minuti già viene bene a fare una chiacchieratina, o no? Ah, infatti, non viene a fare così, non è andata una chiacchieratina, però... Sì, se vuole entrare, entra, no, pazienza. Sì, gli bacchi giù, è indaffarato, boh, non lo so. Io non lo so. No, ma vabbè che non lo c'è qualche detto. Per cui non l'ho sentito nemmeno io. Per cui. Verrà che sarà indaffarato anche lui. Appena che si dirà già si farà sentire prima o poi. Come fa coso, lo chef stesso. Quello intanto si affetta, sta anche 2 o 3 giorni e qualche volta anche una settimana dopo nemmeno si affetti entra lui, sempre sopra modulente. Cosa vuoi fare? Non è tanto, bisogna stare pure. No, io se la sera se non sono impegnato già sta entrando. Beh, è chiaro che dai, ho capito, infatti questi giorni sono, però la sera come vanno spesso, allora secondo anche l'estero io non accendo, capito? Però dopo magari non sono loro, già l'accendo, capito? Però se ascoltarli è chiaro che come faccio a accendere, a lasciarli soli non va bene. No, certo, c'è gente in casa, bisogna fare il suo dovere. Che devo entrare in oggi e la sua che di giù, no, non è così. Domani sera devo accompagnare mio nipote a fare allenamento giù a San Giovanni, quindi non so a che ora torno. Vedo un po', vedi. Quando uno c'ha l'impegno, se è possibile uno, se no pazienza, ma è così, più o meno siamo un po' tutti così, capito? Quando non ci sono impegni allora c'è un'altra cosa, però la prima cosa sono i bambini, questa è la prima cosa che bisogna fare. Ok, così è. Io spero di liberarmi verso le 7:10. Alle 7:10 penso che sia a casa di mia figlia, 7:15 sono qua. E poi adesso questo periodo, tra poco, sono le feste, che sei innamorato, questo, quest'altro, esci, torre, un macello, cazzo. Vinci da una parte, vinci dall'altra, di adesso domani mattina devo fare l'elettrocardiogramma, devo fare. Così che dopo domani devo andare alla dottoressa Diabetta, devo avere un appuntamento dopo domani. Così che domani faccio questo radiogramma, mi ritiro le mani, non faccio, così che dopo domani glielo porto alla dottoressa, capito? Perché se ne faccia facendo fare lì tutti gli analisi, capito? No, io c'ho... Il 18 ce l'ho la visita del diabete con il medico, alle 2:15 ce l'ho. Io ce l'ho alle 9:15 e alle 9:30 ce l'ha mia moglie. Ma siccome siamo tutti e due insieme, siamo, no? Quando entriamo dalla sala, siamo tutti e due insieme, che prima fa me, dopo fa lì, però con tutti e due dentro, capito? Non è che mi manda fuori, no? Rimango dentro, o prima io, o prima lì, capito? l'altro giorno ho fatto anche le colopre via a Plattabona, e poi cos'altro ho fatto? Allora me ne metto, l'ho fatto 3 o 4 già, perché domani devo fare quello dell'elettrocardiogramma e ho finito. E gli porto tutti, e gli adatti che ho fatto del sangue, non li ho ritirati ancora, intanto non li ritiro dopo domani sento come vado alla diabete, e prima ritiro il foglio, dopo vado alla dottoressa, capito? Ma tanto loro, se lo chiedi lo vedono loro direttamente sul computer, lo vedono. No, ma tanto stiamo andando unito, tanto è via la pasta rosa, no? Come entriamo, risolvere l'analisi e glielo insieme a tutti gli altri che ho fatto, capito? Io molte volte il coso delle analisi, se non faccio in tempo me lo fa lui direttamente. Ah, così è. Ma lui sa che mette qui, le analisi le ho fatte già 200 pari, già le ho fatte. Però non ci siamo saliti a ritirarli, capito? Perché abbiamo detto, io ritiriamo il giorno che andiamo a fare la pista, capito? Così facciamo. Gli altri due già li ho fatti, li ho già perso la pezza, li vediamo tutte e quattro insieme, capito? Fate così. Ma la mezzo mi rompere i capri. Il 18, mi rompere i capri, meglio del ciambo e me ne zecco un altro. Perché non ci piace questo? Mi sta cominciando dall'altra volta che mi dà orari strani, mi sta dando. Mi dice l'appuntamento non l'hai preso, che hanno l'appuntamento me lo devi dare tu, me lo devi dare, non me lo devo pigliare io. Infatti se continua così me lo giambo. No, l'appuntamento ce l'ha lì, la stessa nostra, la fame. Queste volte se andiamo dopo alla fine mi si dà l'appuntamento quando tornare tra 2, tra 4 e 5 mesi, capito? Che le fa lei direttamente l'appuntamento, capito? Non è che andiamo noi, no? Lei direttamente ci fa l'impegnativa e sappiamo che noi tal giorno dobbiamo andare, capito? No, questa è brava, questa è brava, molto brava, poi ormai ci siamo un sacco attivati, la conosciamo che è molto brava, ecco, siamo tranquilli per questo, capito? Infatti, no, invece lui mi dice ci vediamo a novembre. Che è andato e mi ha detto, dice, appuntamento, preso là. No, niente, mi ha detto lì che dovevo prendere l'appuntamento. Ma lo dovrebbe dare lei l'appuntamento, no, prendermelo io. Ma continua così, io bisogna me lo giambo e me ne zecco l'altro, me ne zecco. Aspetta, no, c'è il taglio a pressare da pigliarmelo io l'appuntamento. Tu glielo dici, anche per gli altri danno l'appuntamento loro stessi. Certo, e lei fa fare la vandalia per aprire l'appuntamento. E per le dichiare cosa è di fare, ragazzi, non senta giù. Questa è la nostra, quella da lì l'appuntamento, capito? Infatti ve l'ha aggiunto la taglia quando si è andato, ha detto scusi, ma è lei che mi deve dare l'appuntamento a me, no, sono io che dovevo cercare a chiedergli l'appuntamento. Sono la prossima, io mi vado graduando, mi vado a dare così, dico arrivederci, me ne zecco un'altra, me ne zecco, catta, no, c'è di sta per io. Ah, beh, arrivato a questo punto, allora, così era fare un dito. La nostra è troppo brava, aspetta a mettere con lui, mai, dopo tanti anni, cazzo, chiaro, ma no, fa tutto lì, sì, fa praticamente il filo da lì direttamente, noi dobbiamo portare solo gli analisi e basta, ecco, lei ci dice, deve fare questo è un sacco, ci dà l'impegnativa e non andiamo a fare le analisi, però quando devo andare da lì, non c'è bisogno di appuntamento, però da lei l'appuntamento direttamente. Ah, infatti. Infatti dovrebbe essere lui a darmi l'appuntamento direttamente, no che devo essere io a chiamare per avere l'appuntamento. Aspetta, sai quando sono andato a novembre, gli ultimi di novembre, anzi no, i primi di novembre. Ma sono andato, ma dice l'appuntamento, preso là. Scusi, l'appuntamento me lo deve dare lì quando venire qua. No, devo essere io a chiedere per avere l'appuntamento. Dico, me lo dici tutto, cosa secondo cosa mi dici, piglia me ne secco un'altra. Beh, informati prima di prendere un'altra, vedo un po' se quella ha fatto tutto lì, capito? Per lasciare dire a molla, capito? Ah, infatti. Vado al Palazzo Rosa e guardo se ce n'è una che ci abbia, che conosca. Vedo un po', dai. Vedo un po' come sto. Noi dobbiamo andare dopo domani. Domani devo fare quello del cuore e dopo domani devo andare da lì dalla dottoressa. E la presenza ce l'ha dato lì direttamente per dire se fa parte di da molti anni, Lo so, anche io con questo ci sono da quando ho iniziato, ci sono. Ultimamente mi trattengo in mani, mi trattengo. Certo, mi dà l'appuntamento, prima me l'ha dato, la seconda me l'ha dato a mezzodì, ma poi me l'ha dato a due, ma con quattro. Certi volte noi, per esempio, a fare degli analisi, certe volte no, a fare qualche visita, anche a noi è successo varie volte andare dopo le due, le tre, per esempio l'oculista, la maggior parte andiamo sempre la sera noi, cioè dopo pranzo, capito, le due e mezza, tre, capito? Certe volte il cazzo che te lo danno dopo pranzo, capito? Lo so, purtroppo. Vabbè, Gianmaria, io siccome mi sono andato in Mugliri, sto andando a prenderla e ritorno fra un po', ritorno. Ci sentiamo dopo. D'accordo, sto. D'accordo. Già acceso qua. Sì, ok, Gianmaria. Franco la batteria scarica. Ok, sono qua. Chiaro, vai. Stavo dicendo, a 3,60 invece qua. Guarda, sai, non è che me l'ha dato così ritorno presto, Appunto, non sto dicendo, io l'avevo pagata a 2,50, poi aspetta un attimo che mi stava accadendo il PMR, mi stava accadendo che l'ho sposto, se no non lo posso caricare, se lo posso caricare, ecco qua, avanti. Sì, te lo sto dicendo, però poi magari se l'aveva venduto, se l'aveva, perché la matassa che aveva era quasi finita, e avevo comprato 25 metri io, poi ne avevo comprato mi sembra una quindicina di metri di buca, evidentemente la matassa era finita e poi l'ha ordinato e l'ha fatto pagare più caro. Sicuramente, no, perché quando sono andato io ho aperto una matassa da 100 metri, aperto, era tutta in cielo fatta. Ho capito, no, quella che quando l'ho preso io era già aperta la matassa e dunque sarà stata sia no, a metà, all'incirca metà, una cinquantina di litri. Infatti ne ho preso 25 io e 15 litri ne avevo preso Luca. Vabbè, pazienza. Non devo pagare a questo pieno. Vabbè lo stesso. Ma evidentemente perché lui avrà pensato, ma adesso lo stanno cercando questo cavo, perché devo dire che tra i migliori, la Camille è tra i migliori, anche meglio del MG 213. Infatti avevo intenzione di metterla alla 27, quello lì, avevo intenzione di metterla alla 27 e là ci metto questo qua, la... come cavolo è? RG 213. Ok, ho capito. Sì, perché, ripeto, il la Camille io l'avevo preso, soprattutto a me mi interessava il capo che avesse meno distrazione possibile, e questa la distrazione è proprio al 100% la bocca, mentre invece l'RG213 è all'85%. Poi c'è anche un altro particolare su quel capo lì, su un capo RG213 la velocità di trasmissione è 0,66, mentre invece sulla Camilla è 0,83, e anche lì è importante. Perché è importante? Perché significa che quando manda la portante con quel cavo lì, con l'RG213, si accorcia la portante di 34 metri, si accorcia, mentre invece con la Camilla invece si accorcia di 17 metri, è diverso, capito? Un capo migliore, dopo l'altro costa anche di più. Infatti costa di più. L'unica inconvenienza è che è rigido. È troppo rigido, ma io il fatto già avevo qua, per cui mi va bene così. Perché essendo rigido, se lo porta troppo sul PL del baracchino, va bene così. Certo, se non stai attento il baracchino lo solleva, si è preso stesso, perché 25 metri e 25 non l'ho accorciato, io non l'ho accorciato, non l'ho accorciato per niente, anche se avrei dovuto accorciarlo di qualche metro, perché anche per quello c'è sempre un conto matematico c'è da fare, non le fa niente, però diciamo che un pezzo in più è un po' di espressione in più, ecco come il discorso, perché anche lì c'è un sistema tutto matematico da calcolare, ma comunque non ci facciamo caso. Ecco, no, l'altro l'ho fatto giusto, quello lo stesso era 20 metri e ne ho tagliato qualche metro per farlo giusto, 213. Invece questo l'ho lasciato libero, l'ho lasciato e ce l'ho interrata per terra, senza piegarlo, senza niente. Sì, certo. Sì, va così. Io l'ho tagliata, ma è un peccato tagliarla. Ne avrei dovuto tagliare se no un metro o qualcosa, non lo so, non decido. Cioè praticamente si calcola, in questo modo si calcola. La discesa deve essere calcolata in base alla frequenza che stai utilizzando. Allora, se per la 27 dovessi calcolare partendo da 1,82 m, diciamo, può essere anche di meno, è uguale, oppure ancora molto di meno, ma calcoliamo 1,82 m, arrivare fino alla lunghezza che ci serve, che può essere magari 50 cm, un metro più lungo che ci serve, o più corto addirittura, ma se è più corto non ti va bene, allora devi allungare a un metro in più, capito? Va calcolato così, ma ripeto, per arrivare a quel numero lì c'è una cosa matematica, delle operazioni matematiche che devi fare, ci si arriva tranquillamente, perché sembra così, ma vabbè, a noi non ci interessa tanto per il baracchino, ma se un radioamatore signoro che vuole fare veramente una stazione proprio a dovere, come si deve, veramente, proprio al massimo della tecnica, bisogna considerarlo quello, e io non so fare come si fa. Io non ho mai, non so come, neanche come farlo. Io l'unica cosa che mi hanno detto è di non piegare il cavo se anche un po' lungo, di lasciarlo se c'è il posto, anche sul pezzo, lasciarlo non lungo così, oppure farlo arrivare giusto alla radio, e se non ascolto più. Però a volte abbiamo il vizio di spostarci la radio, di da un posto all'altro, e niente. L'unico è stare in quadro, tenerlo il quadro fisso e mettere gli spezzoni. Sì, però in quel caso lì c'è solo un po' di espressione, cioè ti sto facendo un discorso della lunghezza del cavo, perché tu sai benissimo che, per dire, ogni cavo ha una sua perdita in base alla lunghezza. per dire, questo cavo qua, la Camille, mi sembra che ha un dB è 88 per 100 metri, sicché significa che se tu usi 100 metri di cavo, ti sta rubando quasi 2 decibel, ti stanno rubando, che agli effetti della potenza sono significativi. Ecco, appunto, si fa per quello lì. Ma io ho pensato, ma che me la fa fare? Tanto è per il baracchino, non so, con un radiomatore, non me ne frega niente. E anche se sia un radiomatore, se c'è un metro di cavo in più, va bene lo stesso, non devi essere così pignolo, tanto lì dai ragione. Vuol dire, anziché arrivare a Santiago 9, è un posto, arriverai a Santiago 8,9, e cosa vuoi ti dire? È uguale, capisco cosa fa. Certo. Poi c'è questo, l'H100 è fatto quasi nello stesso modo, solo la cassa è un po' diversa, e costa anche poco, 1,49 al metro. Sì, l'H100 costa di meno, infatti, perché è schermata di meno, è schermata, e quello, il discorso è quello, sempre la schermatura, oltre al fatto che prende di più, cioè nei vari metri prende di più come segnale, prende. E tu pensa, ad esempio, prendiamo noi il cavo RG58, che è il più scadente in pratica, no? Che c'è, il più sottile e il più scadente. Quello, se tu prendi, che so io, 20 metri di cavo, a te quanto te ne mangia? Te ne mangia la metà della potenza della radio, te ne mangia come minimo. Perché? Perché è un cavo che prende molto, in base al metraggio, prende molte decibel, ecco qual è il discorso. E così vale per tutti i cavi, chi più chi meno, mentre invece la Camille è uno di quelli che prende meno di tutti, come il 50-20 lo stesso, quello prende pochissimo lo stesso, è un ottimo cavo anche quello. Però qua non c'era il 50-20, allora ho optato per la Camille io. Ecco. Vabbè, per avere tanto un cavo buono, no, più che altro. Ecco, qualche giorno intanto devo portare giù l'antenna, me la voglio pulire, un giorno che fa bello. E quando la scendo giù, ci cambio il cavo. La Camilla la metto alla 27, lo metto. E quello là ce l'ho fatto là, tanto. Per quello che lo uso, PMR. Ah beh certo, quello sì, non ci sono dubbi. Ma il PMR va bene, sì, tu vedrai, ma se metti quello, già il PMR perde molto, se metti il cavo che perde è ancora peggio, quello già è vero. Però per dirti, poi ci sono cavi che sono grossi quanto un manico di scopa mia, anche di più. Ma quelli sono prestazioni proprio all'avanguardia veramente, e per radioamatori proprio di quelli che ne stanno veramente, e allo stesso tempo che hanno delle stazioni da migliaia e migliaia di euro, perché solo quel cavo lì ti costa un patrimonio, ti costa, per carità. Tu ti immagini, perché loro pensano, ma radio da 7, 8, 10 mila euro, 15 mila euro, poi antenne magari da 1 milione, cioè da 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euro, per dire, no? 1.500 euro di antenne, anche di più. E dice, il cavo vuoi risparmiare? Allora mettono cavo di quella portata lì, che sono cavi eccezionali, veramente. Quelle sono cose per radioamatori, non sono cose per noi, perché ci mette direttive per altro tipo di antenne, e quello non è per un'antenna di 27, quello è un discorso a parte, di rubinare. 155 mettiti. Anche il 155 è buono, io come 155 ho fatto un dipolo, il dipolo che sto usando adesso è fatto con l'H 155 e da, sino a metà, poi il resto è filo unipolare da 2 mm e mezzo mi sembra, e da 2 sì per l'esattezza, dai. Per cui bene bene, l'H 155 anche quello è un ultimo cavo, però è sempre quello il discorso, ha sempre una velocità di trasmissione 0,66, ha una schermatura bassa, e il discorso è sempre quello, che più spende più meno spende alla fine, no? Però ripeto, va bene, l'H155 va ugualmente bene, almeno per lui, per il baracchino, non ci sono dubbi. Riprenditore. Buonasera. Ciao Franco. Io ce l'ho, tutti e due ce li ho, sia per uno che per l'altro. E va benissimo. Stazionari è zero, tu sei in tutti e due, quindi già va benissimo, le pizze truppo, e poi gota a burro, a uno e a me l'ha fatto pagare a 1,49 me l'ha fatto pagare. Lo so che costa, già lo so che costa, considerando che è un filo grosso quanto il 58, c'è che non è. Lo so, però è fermato e va bene, non è certo il 28, non è 58, no, assolutamente no. Prima io avevo, tantissimi anni fa, avevo il RG8, anche quello è un buon capo, però non ha niente a che fare con la Camille, assolutamente no, è tutta un'altra minestra. Ecco qua il discorso. L'unico vantaggio dell'H155 è che è flessibilissimo come il RG58, però ripeto, in base alla perdita c'è molta differenza tra la Camille e la H155. Io ti sto dicendo, l'avevo pagato a 2,50, ammetto, la Camille, però praticamente mi chiede come 62 euro o qualcosa del genere, per dirti, avrei risparmiato parecchi soldi, avrei risparmiato minimo 25 euro o forse anche 30 su 25 metri, il discorso è questo. Però c'è la differenza anche del capo, anche per l'isolamento, se ti dura per di 10 anni la Camille ti dura 30 anni, ecco qual è il discorso. Il sole non gli fa niente, non te lo cucina sul tetto, sai, con quel sole forte che fa, mentre invece la Camille col tempo l'isolamento se lo brucia il sole. Vai Franco. Ciao dottore, buonasera. Sì, allora c'è quello meno fermato, il normale, che costa 1,40 al metro, mentre l'altro con doppia fermatura è 1,70 al metro. Buono. Come prezzo non è così eccessivo, non è come la Camille come il 213, anche il 213 costa anche di più di questo qua. Aspetta, va già un 240 anni, va già un l'RG8, figuriamoci, fa 40 anni. Sì, era buono l'RG8, per noi per la 27 andava benissimo. Poi li abbiamo tolti perché anche noi abbiamo deciso di mettere magari per la video su un lineare blu su una cosa. Sto confondendo con l'RG58. Sì, l'RG8 è a livello stesso dell'RG213, è grosso così, però è meno schermato. Infatti era meno schermato. Infatti qualche po' di stazionare qualche volta ce li avevo, ma funzionava ancora. 40 anni bravi a sopra, ma non c'è mai marcito. Sì, vabbè, ma non c'entra niente il fatto delle stazionarie con la qualità del cavo, assolutamente. Quello dipende sempre che va poi accordato come si deve, no? In quanto al fatto delle stazionarie non c'entra niente. È tutta un'altra, un'altra cosa, il cavo coassiale ha delle perdite, è la fermatura che conta, e soprattutto la velocità di trasmissione, quello che devi considerare. E ripeto, come stavo dicendo un po' poc'anzi a Franco, anche il cavo vuole tagliato alla lunghezza giusta, senza avere spreco eccetera, perché se dici la carta intanto va giù 2 metri di cavo in più, 2 metri di cavo in più ti mangia qualche decibel in più, ti mangia, ecco qual è la differenza. Poi il cavo più buono è, anche se è sempre 2 metri più lungo, quello che ti mangia è di meno, no? Ecco qual è il discorso. Poi il fatto delle stazionarie non c'entra proprio niente quello, non è dovuto alla qualità del cavo, è dovuto ad altri motivi, o Franco, o Ottore, per primo. Sì, quello sì, no, ma ce l'avevo attaccato io su senza antenna, non vera più che era tagliata l'antenna, ne aveva cavata, quindi avevo lasciato su il capo, l'avevo lasciato, poi ci ho attaccato il coso, ci ho attaccato l'antenna al PMR, ci ho attaccato sino a mettere i cavi nuovi, e poi ho messo tutti i cavi nuovi, antenna nuova e tutto quanto. Sì, ma se per quello io l'RG58 ce l'ho attaccato all'antenna del ricevitore, cioè all'antenna dei 2 metri, ma ce l'ho già quasi 10 anni attaccato, che lo uso con l'antenna, la uso col ricevitore per ascoltare appunto le varie frequenze. Io ho il ricevitore mi dà tante frequenze, anche le radio private prende, per dire, no? E l'avevo messo perché senza l'antenna non è che senti molto, diciamo che senti poco e niente col suo antennino, mentre invece quello lo tengo sempre attaccato per il ricevitore, quando mi salta in mente accendo e so che l'antenna è già pronta ed è del RG58, anzi di quello scadente anche, non è nemmeno di quello argentato di una volta, è quello addirittura con la fermatura color rame, che deve fare di equipo, con una maglia molto larga, per cui però ho visto che in ascolto mi dà la stessa soddisfazione e mi va bene, intanto non è che devo trasmettere con quella, no? Con quell'antenna, cosa me ne frega, va bene così. Avanti Franco. Vanno bene tutti i cavi. Sì, è bello quando meglio anche che quando uno si mette le antenne nuove, mette il cavo nuovo, come ho fatto io lo stesso. Quando ho messo l'antenna nuova ho cambiato tutti i cavi, ho cambiato. E io i cavi non è che ce li ho così buttati fuori. Addirittura li ho messi dentro una guaina per il sole, queste cose qua, perché si conservano molto meglio, si conservano e durano di più. Avanti tu. Lo so, anch'io lo volevo fare, ma aspetta, poi 33 dubbi e coso, e un altro 17 metri di coso, di guaina, ma ho preso e ho messo così. Io ho preso una bobina, ne ho preso, una bobina di sembra che era 20 metri. E me l'ho tutto infilato dentro, tutto il campo. Sì, così già va bene, lo protegge. Però io ad esempio, adesso che l'antenna c'è in basso, il cavo è rimasto sempre la lunghezza di quando c'avevo la mantova, che era a 6 metri più in alto, e anche più lontano oltretutto. Sicché questo volendo lo potrei accorciare all'incirca di 8-10 metri o fra, ma se poi l'accorcio, quando poi sposto l'antenna dall'altra parte, non ci arriva più, questo cos'è da mettere a prendere il cavo. E dunque tutto spazio sul tetto così. Ma è tranquillo perché l'ho controllato e va benissimo. Tornando al discorso stazionario, sole, a te le stazionarie si rilava con le RG58, perché? Perché l'isolamento da qualche parte si era seccato ed era entrata l'umidità, entrando l'umidità dentro si crea il verde rame, si crea nella calza. Ed ecco che a quel punto lì, allora subentra il discorso stazionario, che sarà difficilissimo riuscire a studiarti. Ecco qual era il discorso, tu hai parlato di stazionaria poc'anzi, solo così il campo può creare le stazionarie, se si rompe l'isolamento ed entra nell'umidità, allora si crea un ossido ed ecco che le stazionarie si possono verificare. E vabbè, avanti Franco. Sì, se entra acqua è ovvio che corrode e si fa stazionario. È come tutte, come le antenne delle macchine, lo stesso. Se ti entra acqua nella bobina, lì sei fregato. E così sono le antenne grandi. Come quando c'erano quelle antenne, non so se ti ricordi quella rappella, quella lì. Se trova acqua dentro quella bobina e lì fregato. Quella lì era la tipo la sella, c'era quella specie di barattolo trasparente, addirittura si poteva vedere l'acqua all'interno, si poteva vedere. Io la sella l'ho tenuta più di 20 anni, una grandissima antenna, aveva 16 radiali, a differenza della Mantova che ne ha 8, per dire, una Mantova tubo. E quella che aveva 16, però molto più corti, saranno state siano 70 cm lunghi ognuno, mentre invece quelle della Mantova tubo sono 1,50 m, 1,60 m. Però se ne aveva 16, ma era una meraviglia di antenna, fisicamente molto ma molto ben strutturata, con nonostante che l'asse centrale, cioè lo stilo centrale, non era grosso come quello della Mantova, però l'ho tenuta più di 20 anni con l'antenna lì, e ce l'avevo con l'RG8. Ecco, allora dopo un po' mi sono deciso di cambiare il cavo, proprio perché l'RG8 dopo tanti anni si era crepata l'isolamento in un punto ed era entrata l'acqua, e allora c'era la cosa, il derrame aveva creato, ed ecco che avevo un po' di stazionarie, però sempre nella norma erano rimaste, perché era un cavo buono, l'RG8 anche quello era un cavo buono, però purtroppo si era seccato l'isolamento e chiaramente quando pioveva sempre qualche goccia d'acqua entrava e allora faceva quel difetto. Avanti Tore. No, io le stazionarie ce l'avevo perché l'antenna era praticata da sotto e mi dava stazionarie, ecco perché. E poi con quel vento forte che ha fatto, brutum, se n'era lampada. Sì, avevo capito che l'antenna era l'altra antenna che c'era stazionaria. No, ma per rispondere a te sul fatto del cavo, il cavo se è isolato bene, che non entra acqua, stazionaria non ne può dare nella maniera più assoluta. Dipende da altre cose, dipende dall'antenna, dipende da un piede fatto male, dipende da altre cose, ma non dal cavo, assolutamente. Dal cavo può dipendere la potenza, può dipendere, quello sì, e cioè la perdita, voglio dire, di segnale, quello sì, però se il cavo è intero, le stazionarie, se uno lo fa accordare grazie all'antenna, perché va accordata l'antenna, non il cavo, anche il cavo, ripeto, volendo si può fare, però è tutto un conto matematico che non tutti lo sanno come si fa, per cui uno usa la lunghezza che arriva al baracchino, basta e finisce lì. Però le stazionarie dipendono sempre dall'antenna, non mai dal cavo, questo volevo intendere io. Avanti Franco. Per cosa devi evitare l'antenna le stazionarie? Dici no, così. No, io la quando su questa della verità stazionaria zero da tutte le parti, proprio zero, non si muove neanche l'acqua. Poi pensavo che camminava per bene, come dicevano tutti, non ricordi Giulio quando ci dicevano che la Mantova turbo faceva dei difetti, eppure a me mai. No, l'unico difetto che ha fatto a me, sempre un paio di volte o anche tre volte, è che si interrompeva la cortocircuitazione, non era più cortocircuitata. Ecco, però in quanto stazionaria niente, in quanto arresa era sempre ultima, non ci sono dubbi. perché all'interno di quel mosto che c'è nero sotto alla base c'è una bobina, c'è, e questa bobina è fissata in una maniera un po' alla quale rose, se vogliamo, nel senso che quando basta un po' di ussido che entra dentro, si ossida e non fa più contatto. Perché? Perché questa bobina serve per la corrente elettrostatica, si potrebbe anche togliere volendo, però allora in quel caso lì bisogna andare a allungare anche l'antenna, perché fa parte della lunghezza fisica, quella bobina fa parte della lunghezza fisica dell'antenna, fa parte. Mi spiego, se devi fare l'antenna che vuole 7 litri, quella bobina contribuisce ad arrivare alla lunghezza che deve essere l'antenna. Allora, hanno messo quella perché in realtà quello lì è come un condensatore che serve per la corrente elettrostatica in modo che i fulmini non entrano nella radio. Oh. Allora, cosa succedeva? Siccome quella lì c'è un incavo, il filo entra esattamente preciso dentro questo incavo, entra, ed è poi il contatto, per avere il contatto è ribattuto con un, tu immaginati un cacciavite, prendi un cacciavite e lo metti di traverso a questo incavo, gli dai un colpettino e l'alluminio si piega, si schiaccia, no? E si avvicina a questa bobina, al filo, e in quel caso lì tutto va bene, però col tempo, a forza di muovere, oscillare, eccetera, questa cosa si allarga anche questo tipo di assemblaggio, e allo stesso tempo si oscilla. Allora, oscillandosi non c'è più il contatto diretto e non è più cortocircuitata l'antenna, capito? Fra cosa intendo, era quello il problema, però in quanto a resa e in quanto a stazionarie mai avuto, mai, nella maniera più assoluta, ed era sempre perfetta, solo che mancava il fatto di essere cortocircuitata e mi dava fastidio quello, infatti l'avevo buttata giù una roba di 3 volte, io la mettevo a posto, dopo un po' di tempo di nuovo la capo, faceva lo stesso difetto. Ecco cosa intendo, avanti fra. No, a me non me l'hai mai fatto, a meno che non me ne sono accorto. E come fai tu a sapere che non hai cortocircuitato? Devi mettere il test, devi mettere fra il polo caldo e il polo freddo e lo senti. Se non suona, o meglio, se non c'è continuità, vuol dire che non è più cortocircuitata. Però l'antenna, ripeto, funziona sempre perfettamente. Però in quel caso lì ti manca il discorso della corrente elettrostatica che si può interrompere tramite questo o questa bobina. Ecco come la fa. Ok, adesso la provo a vedere 2 minuti. Vabbè, prova. La tosse mi fa bene. Avanti, Tore. Dille che hanno gli di accorrente mi. No, ecco, vedi, ecco, adesso stiamo parlando di corrente elettrostatica. La corrente elettrostatica è proprio quella che l'antenna si carica e quando vuoi toccare il PL si può dare la scossa, è vero, mentre invece se c'è la bobina, quella corrente elettrostatica non si caricherà mai. Perché? Perché scaricare una carica è come un condensatore, no? Se tu prendi un condensatore, togliti la curiosità, un condensatore che sia a 500 volt ad esempio, che sia comunque intorno ai 250 volt, e infili tutte e due gambe, infili dentro la presa elettrica senza toccare le gambe, e quel condensatore si carica. Allora, dopo che lo togli fuori dalla presa, prendi un cacciavite e fai contatto, fa un po' all'alto, vedrai che c'è la scintilla, se lo tocchi con la mano tira la scossa. Lo stesso discorso sarebbe successo nell'antenna se non ci fosse la bobina, capito, Ottore? Ma sai come scarico io quell'altro delle PMR? Nel capo c'è la cosa, un bedibucci. Allora attacco un cavetto al tubo del termosifone e la carica giù. Bucci. E quello c'è la massa a terra. Se tu gli fai una massa a terra, corrente elettrostatica non ce ne può essere. Ecco qual è la differenza, perché? Perché quella corrente elettrostatica viene scaricata a terra. Ecco, perché? Perché in quell'antenna non c'è la bobina, guardate. Ecco come, ma se c'è la bobina ed è funzionante, la corrente elettrostatica non entra. A meno che non arriva uno di quei fumi di questo a tutta birra e ti scendeggia la casa, come è successo a un amico di recente. Ecco qual è il problema. Vediamo se Franco ha ripreso. Franco, Franco sta controllando con te. Avanti, dottore. Sì, vabbè. Dovevo uscire. Da me, ma ogni tanto me lo dà. Quando piove che me lo dà. Se no non me ne dà. Io lo so, tu vai, lo sai per quello, prendi e lo scarichi sempre, e così costa, non è che sia una cosa che ti vuoi mineggiare, perché la costa senza un pelaggio, sia ben chiaro, non è che ti vuoi mineggiare nella maniera più, ma intanto però, una custodata di racconti come stessi, riprendi so. Cazzo ci mi racconti, e me la putta, lasciagli. Ah, oh, mio, attacco il cappetto. Sai che la carrigheggio così, tanto che è attaccata io sulla massa, a buglia. Hai visto che è attaccata la massa io su, dentro una gallaia. A vedere se si carrigheggia. Vedete se si carrigheggia. Se non me ne raggi più, ma lo faccio ogni tanto, quando, dopo che la giornata è calma, allora lo scarico. Appunto, stai attento, perché con la corrente si può bruciare anche la apparecchiatura, devi stare attento. Io ti consiglio, allora, visto considerato che con l'antenna ti fa col difetto, staccala, una volta che l'hai usata, staccala. Quando ci sono temporali, se poi la giornata è tranquilla non succede niente, ma se ci sono dei fumi eccetera, o caricarsi e li può bruciare il baracchino. Ok, sono aiutato. Ecco, e beh, ma all'inizio, come ho messo un po' caldo, poi ho toccato dove c'è la casa, sopra la pelle. Ha fatto, e poi si è stato zitto e non ha avuto il top. Riprovo di nuovo. Il ciccarino, il test è tuo, il ciccarino. Sì, è completo quello. Appunto, riprovo, deve suonare. Deve suonare, non ci sono dubbi. Quando è cortocircuitato, se non lo fa vuol dire che l'antenna non è più cortocircuitata. E questo te lo posso garantire al 100%. Cosa comporta? Cosa comporta? Che in caso di corrente elettrostatica ti può entrare nella radio, però ti può entrare e ti può bruciare la radio, ecco cosa comporta. Niente di, naturalmente tutto questo in giornate di intemperie, eccetera, no? Fulmini e balle varie. Però anche se c'è la corrente cortocircuitata, anche se è cortocircuitata l'antenna, è sempre meglio quei fumi staccarla, così non vuole solo che questa bobina a fermare l'amperaggio dei fumi, che sono migliaia e migliaia di ampere, si può immaginare. Sentite, no, fa, uia. Però è fatta così, infatti quel funghetto che c'è in punta, che è di plastica quel funghetto, è fatto apposta proprio per evitare il contatto diretto del fulmine sull'antenna. Ma non ho visto lui questa cosa per evitare il fulmine. Vabbè, io riprendo io e chiudo. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Franco, ciao Giulio, alle prossime. Ok, ciao Tore, alle prossime, dai. Fatti sentire domani magari, così facciamo un'altra chiacchieratina. Avanti Franco. Hey, capo. Ciao Tore, ci ascoltiamo. Non proseguo. Quando la scende adesso la controllo. Tanto io non è che devo fare molto lavoro, mollo due bulloni, mollo e lì scende come scende l'ascensore, sino a terra. Appunto, perché, ripeto, fra, se c'è continuità il ciccarino suona, se non c'è la continuità allora si caglia avuto l'unica vita. No, perché secondo come lo mettevo, faceva sì, poi non faceva più. Lì e poi non lo faccio più. Solamente magari c'è vento come stanno muovendo l'antenna, capito? Ho pensato io. la scendo e la controllo bene. E se lo come quella lì, dove quella pelle lì si può vulcanizzare? No, non va vulcanizzata, bisogna ruotare, togliere la calotta, quella vera, bisogna togliere tutto, bisogna togliere e arrivare alla bobina, perché sicuramente l'introduzione è nella bobina, non è nell'antenna, no, è nella bobina, che la bobina non è collegata alla massa per bene, però questo non comporta niente in fatto di potenza, di resa e di stazionaria anche, non comporta proprio niente, mentre invece c'è il problema che non è controcircuitata, sempre per il fatto della corrente elettrostatica, perché quella bobina è stata messa appositamente proprio per quel motivo, in modo che la corrente elettrostatica non entri nella radio. Sì, sì, quello l'ho capito che non è l'antenna. In effetti, da lì si toglie tutto un filo lungo, si toglie e si porta giù a terra. E poi si aggiusta il coso, si toglie la bobina, è ovvio. E quello l'avevo capito, che forse nella bobina è il problema. Appunto, è quello che... siccome io l'antenna ce l'ho smontata, ce l'ho, posso anche sfilare la calotta volendo, domani se mi ricordo le faccio la fotografia e dopo ti mando la fotografia della bobina dove è alloggiata tramite WhatsApp, speriamo di ricordarmene però, capito? Perché dovrei montare la calotta, l'antenna vabbè è tutta smontata, no? Cioè solo lo stilo centrale, quello lungo di 7 metri è sempre sdraiato per terra nel terrazzo, su all'ultimo piano, nella mansarda. Non me ne dà fastidio, tanto il fogliolo è molto lungo, è 8,50 m per ogni lato, perché si può immaginare a voi la diversità dell'antenna. Quella non l'ho smontata, l'ho lasciata intero, l'ho lasciata, c'è ancora il funghetto attaccato, tranquillo e pacifico, anche perché il funghetto io l'avevo tutto rinforzato, poi con del nastro isolante, insomma, no? Perché gli ombrellini, no? I raggi, chiamiamoli così, quelli cadevano col sole che si seccano, mentre invece io ci ho messo il nastro isolante, sono sempre piazzati, tranquilli, ci sono tutti, ci sono. Mentre invece la calotta, tutta la calotta, dove c'è la bobina, eccetera, quella c'è dentro casa, e anche i cosi ho dentro casa, i radiali, è ovvio, no? Non me ne lasciavo fuori, no? Ma per dire, domani se mi ricordo faccio la fotografia alla bobina e te le mando su WhatsApp per rendersi conto com'è. Sì, sì, quando vuoi, intanto io a farlo adesso si va al prossimo anno, perché io il 22 devo partire e poi ritorno il 3 ritorno. E non ci sono, non faccio niente entro quest'anno. Tutto a gennaio, a fine gennaio, mi organizzerò. Certo, quando parti ricordati di attaccare l'antenna e stacca anche la corrente dalla radio, per cui non si sa mai. Cioè, perché a me mi ha già fregato una volta, un paio di anni fa mi ha fregato, mi ha rotto quattro cose, mi ha bruciato un alimentatore, un baracchino, no, due baracchini, il router del computer, quattro cose, due baracchini, l'alimentatore da 25 ampere, switching che avevo, ho dovuto comprare poi un altro, l'ho preso a 30, e poi mi ha bruciato anche il router del computer, a un tiro, sì, io non c'ero a casa, stavo lavorando, dunque è arrivato questo colpo di fulmine e mi ha bruciato tutte quelle cose lì, e sono stato fortunato. Perché potevo andare anche piccio, per cui vedo staccare tutto, capito? No, io quando mi allontano così stacco non solo delle antenne, tutte le antenne, anche la corrente stacco, perché l'anno scorso, sì, mi sembra che l'anno scorso, nel 2017, che mi ha bruciato un alimentatore, mi ha bruciato, sono collegato alla corrente. Sì, sì, certo, ma è spento, non è importante se è spento, arriva e come passa, capita se passa, altro che l'apparaggio del fulmine è altissimo, non so quante migliaia di ampere, si può immaginare, ecco perché fa tutto quel danno. Quando cade da qualche parte, per carità, io vuoi solo che Non provo solo che ho la bobina o un interruttore chiuso per non far passare lui, ma dai. Sentite, no, fra. Succede. Succede così. No, ma io, allo stesso, quando esco, sacco anch'io la corrente, anzi, io di più, sacco anche chiudo anche l'acqua dal contatore centrale. Quando esco, prima di dire, quando sono a casa, fuori c'è il contatore d'acqua, chiudo anche quello, chiudo anche lo verso. Perché? Perché una volta, mi ricordo, fortunatamente eravamo a casa, e si è scoppiato il flessibile dello scaldabagno, si è scoppiato, nuovo, mi era messo nemmeno una settimana, nuovo. Si è scoppiato, ha incominciato a uscire acqua, ragazzi, dal tubo, basta, tutti i vivi, lo guastiello che ho fatto. Siccome noi abbiamo la casa più di vivi, e dal bagno di su, della zona notte, l'acqua è arrivata direttamente, ho visto questa cosa attraverso le scale scendendo, ho visto il rubinetto, cazzo, stavo su, e cosa c'era? C'era il flessibile dello scaldabagno che era partito, si era proprio staccata la gomma, non scoppiata, staccata la gomma dall'ottone, da quello, era difettoso, ed era, avevo comprato nuovo, dopo pochi giorni, e ha fatto quel difetto per dire. E per quello chiudo anche l'acqua, non si sa mai che se rompe un flessibile lo chiudi in casa, e andavi lì, deve entrare con la vacca, deve entrare. Quello già è vero, quello già è vero. E purtroppo bisogna, vabbè, chiudere l'acqua già è facilissimo, non è difficile. Chiudi la giavetta e ne appuzzo la punta d'osso, non è difficile a quello. E niente, no, io a dire la verità mi stacco tutto, ci butto i capi sotto la scrivania, ci butto, e le radio sotto la scrivania, gli hanno quasi nuda quando usi. E stacco, corrente tutto. Sì, così fate, no, io quando esco faccio il giro. Innanzitutto la bomba, primo, chiudo la bomba, la corrente elettrica e l'acqua dal contatore, perché c'è il rubinetto a maniglia, non posso anche girare la maniglia e basta, non è di cosa girare, è a vitero, è a maniglia, tiro la maniglia, boh, chiudo l'acqua, non vede più. E poi quando rientro, la cosa che faccio apro l'acqua, e poi arrivo a casa, stacco il contatore sempre, perché anche quello è fuori, nell'ingresso, sicché apro la cassettina con la chiave e tiro sulla bevetta del contatore. E intanto entro con la luce. Per dirti no, è la bombola lo stesso, quella, non si sa mai, si buca il tubo, si buca della cucina, si riempie la casa di gas, tu appena niente, accende la luce, come accende la luce, boom, è la bomba. Ma scherzando siamo, bisogna stare molto, ma molto attenti a queste cose, non bisogna dimenticarsene o Franco. No, queste cose si fanno sempre, si fanno, sono cose da fare, specialmente quando non sei in casa. Non per altro, perché io ho anche il bombolone del bagno, della luce, perché scaldabagno elettrico non ne ho, ho messo la caldaietta a gas. E quelle vanno tutte spente, tutte chiuse. Appunto, sono cose molto pericolose. Quante volte si sono sentiti accendere la luce, uno è arrivato a casa, accende la luce e ecco piede alla casa. Non importa. Perché? Perché la casa era stata di gas. E tu lo sai che basta solo la scintilla della lampadina o dell'interruttore, come lo tocchi, boom, e prove. Succede così. No? Bisogna stare molto, molto, molto attenti. È un po' lo stesso discorso come quando uno si fa la doccia, staccare sempre l'interruttore generale dello scaldabagno, l'interruttore unipolare dello scaldabagno, cioè bipolare dello scaldabagno, bisogna staccare quello in modo che nei tubi non ci possa essere corrente tramite lo scaldabagno. Così bomba esabile sono tutte cose che una persona dovrebbe fare attenzione, proprio per evitare incidenti che sono evitabilissimi. Basterebbe un pochino di zucca in testa per evitare certi incidenti. Poi di un ritirato nella vita, si sa, siamo sulla terra e tutto può succedere. Però intanto se si succede proprio un artista veramente. Quello sì. No, io quel problema lo chiamo, cioè, a gas la mia. E io se spengo il gas lo produccio. E appunto, dico, sono tutte cose, tante volte uno dice, ma siamo bailati che cose, proprio queste cose li devo bailare, che li devo guardare, sono cose pericolosissime, sono fondamentali, è meglio, e mentre invece quando una notte o un giorno che ci sono fulmini, eccetera, senti che i fulmini sono vicini, allora cosa fai? Vedi anche tutto, le antenne della televisione, la stufa che è diventata elettrico, la stufa pelle che ci vuole l'elettrico, la lavatrice, attacchi tutto, tutte le fine, si deve staccare dal coso, perché non si sa mai. Allora, non fulmine ti brucia caldo è, come è successo due anni fa, qua al punto, a 200 metri di Nadaglia, dove abito io, è sceso un fulmine sull'antenna TV di una casa. Intanto l'ha incendiato all'esterno, c'è il tubo del gas, no, che arriva dalla strada, intanto l'ha fatto piano sul tubo e l'ha incendiato il tubo, il gas, sono rimasti pompini, primo. E poi qui nella zona di Ripunti, a distanza di 800 metri, c'è la commissa da dove è successo il fatto, e l'ha bruciato il motore del compressore a quello della pasticceria, mi ha bruciato un po' di elettrogeno. A me mi aveva bruciato due baracchini, un alimentatore e il router del computer, per dire, e a tantissime persone, scaldabagni, lavatrici, frigorifero bruciato, a un tiro qui. E il fumo è caduto in una casa che c'è a 200 metri di Italia da dove abito io, o fra. Sicché ti puoi immaginare che ha tutti di blues. Pericoloso è, cazzo, non stiamo scherzando. Come io ricordo da piccoli, quando andavamo in campagna, mio padre ci diceva sempre quando faceva acqua temporale, cosa così, meglio sotto un ombrello che sotto un albero. Te lo credo, sotto l'albero assolutamente, no? Non c'è altra cosa, gli alberi attivano i fulmini. Tu basta pensare che da dove abito io, al campo di calcio che c'è qui da Napiglia, la squadra di calcio di terza categoria, che pure il proprietario è Roberto Quadrato, o Roberto Farina, il verniciatore, in campagna sua è sceso un fulmine una volta, un albero, era troncato in due, un albero grosso, proprio troncato, diretto in due, un fulmine. Predici com'è la situazione? Sì, è certo, è un'idea, è una mia, pagate sotto. Non è il primo che ci è rimasto sotto un albero, non è il primo, ne sono molti parecchi, ne sono molti, così. E purtroppo è la natura che è un casino, e poi adesso è ancora peggio di prima, adesso dove scende fa proprio danno. Adesso è pericolosissimo, tu pensa che quando ci sono i fulmini, avere una catenina al collo, tu non hai idea di quanto è pericoloso. Addirittura l'orologio al polso, quando hai l'orologio al polso, è pericoloso, non si sa mai. Perché? Perché il metallo attira il fulmine. È successo anche quest'estate passata, in una giornata di temporale, nonostante che era l'estate, questo aveva la catenina al mare, si trovava al mare, di punto in bianco ha cambiato così, in queste quattro ore, si è salvato un tempo, è arrivato un fulmine, questo aveva il cartoncino, no, il costume da bagno, e con la catenina al collo. E non ha bruciato, tutto il petto gli ha bruciato il fulmine, perché? Perché è caduto proprio sulla catenina il fulmine. Che sciuga, mamma mia. Sì, vabbè. Alleluia, sì. Va bene, no? Va bene Giulio, che mi sta chiamando a mangiare. Ci sentiamo, almeno ci sentiamo domani, no? Sono a casa, domani dovrei essere a casa di nuovo. Sentiamo, ciao, buon proseguo, buon tutto e alle prossime. Ok, ciao fra, grazie per la chiacchierata, dai, a domani, ci sentiamo domani, buona cena, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie a te.